ascolti il caffè amaro? Marino, se ascolti il caffè amaro? Chi va là, chi va là? Attento Marino! Hey you, I just see. Mamma mia, sì. E io. Vabbè, grazie. E cosa serve? Me la prende nella TV. Però l'hanno dato ieri quel programma. Al canale Alfa. E l'ho spento. Cazzo, la faccio a pigliare il 15, pure chi mi ha dato la matta in 5. Ah, sto guardando qua, Rai 3. Ah, e c'è, cosa? Ah, è lì, a base, sono tutti a pavità di cucina. Prima era più bello, perché faceva vedere un sacco di documentari. Avanti a posto in mezzo, un tempo, vernacca, cosa di cucina, il chef, la pasta a Napoli. Era più bello prima quel programma. È vero, facciamo delle cose più belle. Adesso sta preparando cose di carnevale, biscotti, cose così. E vabbè. Ma prima facevano vedere un bel documentari belli, ma proprio belli, solo documentari. Avanti gli altri un po' più poco in mezzo di mondezza. Chi già cucina così, chi già fa cucina così. Non lo sanno in macchina, invece è più bello. A me piacciono i documentari, e posti che non hai mai visto, quei documentari così mi piacciono un sacco. Ma no, questi stronzati che fanno vedere a cucinare, ma cosa mi ha tutti fatto? Rosso, adesso ora vedo cosa c'è a 12, ma a 52. A 59 c'è Alfa, ma... L'ho visto ieri, poi è finito quello dell'Alaska e so fanno vedere questi quattro macchie che costruiscono dalla roba vecchia, così fanno delle baracche, ma... Ui. No, ho detto 52, non 59. E che cosa c'è in quel canale? Di Max. Ah, ui, non mi piace, bulivi. Hanno tutti i dati questi, ce li guardo, però è tutta roba già data. Ui. Già me ne sto accorto. Ma qua sta prendendo dei cosi, canale Alfa. E vabbè. Purtroppo così. E come arriva l'estate, danno sempre le stesse cose. Non ti fanno vedere niente. Vabbè, ma come li camminando a mare io? Ui, il televisore, la notte non sai un iracchi, tutti i film che visor magari capitalati che sono tutti i film, non ve ne è uno che si salva che sono tutti i film già visti, anche di recente. Adesso ieri c'era, ha detto cosa era, quello di cinesi, il piccolo re, una cosa del genere, di cinesi che è un re, la minorizia cinese. La natura che da passata è un altro canale. Adesso stanno prendendo delle rocce qua, non so cosa stanno facendo, quel canale che hai detto tu a 59. Quelli costruiscono da roba vecchia, fazzini, cosa ti posso dire? Come ti dico, un rifugio lì in mezzo agli alberi, usano tutta roba vecchia che è riciclata, magari dai padroni che le hanno comandati, no? Gli fanno così così, me. Ieri stavamo chiamando, non c'era nessuno qua, non eravate al baracchino. Non eravamo al baracchino, non ci ha sentito perché. No, si è staccato qua. E tu ieri mi hai detto che oggi te lo attaccavi la 27, lì te lo mettevi tutto. Ma anche da una baranoia. Sta meglio qua. Vabbè, Caruso. Però i roghi un bel busti e mi li bruciamo un po' qua la 27. Anche per fare funzionare le radio della 27, capito? Noi io l'ho acceso anche per quello lì, a farlo funzionare, ogni tanto lo posso funzionare, e se no è come se non nasce, capito? Poi ieri è entrato anche Daniele. Daniele chi? Daniele quello che è all'uscita in Viale Italia. Ah, baracchino. Ehi, è in macchina però era, è stato un po' un quarto d'ora, va. Poi si è assentato, ha detto che rientrava, invece evidentemente non ha fatto in tempo a rientrare. Ehi, ma è un due signori l'attacco, dai. Mi ha detto anche lui stesso che l'altro giorno l'ha acceso, sul 23 non c'era nessuno, però in altri canali, sul 10, si è fatto una chiacchierata con Gianni, con Antonello, insomma già ce n'è la gente che conosce Buruetti. Adesso Gianni diminuisce un bel di chi si va via i baracchini. Figurati che su compra e vendo venivano tre baracchini, uno con la scheda Elco, chi ce le vende di 200 euro, un altro non so come stava, non me la metto, 100 euro e un altro ancora 100 euro, un biglietto se ne vendendo. E quello è Sandro di Porto Torres. No, ma anche un altro di Sassari c'era, adesso non mi ricordo il nome, e Sandro pure, quello di Porto Torres è Sandro. E io. Ma non è il compare Gianni, e capo che se ne compare, sta andando e sempre decadendo, hai visto la tecnologia oggi al televisore, e quei telefonini che stanno inventando, lo puoi anche piegare, fa anche da tablet. E va. Si fa, esce grande, lo puoi fare, puoi utilizzarlo come tablet e come telefonino. Allora costa, mi sembra che hai detto 1200 euro. Picchiata. Lo pieghi come puoi piegare un foglio di carta, così lo pieghi, tipo un libro. Quando è uscito questo tablet? È un telefono, tablet, lo puoi utilizzare a tablet e a telefono. Oggi l'ha fatto vedere in televisore. Ed è morbido, gommoso rimane, tutto flessibile. Pare di gomma. Mai visto, mai sentito. Luca! Eia! Poi l'ha fatto vedere oggi, mi non so se Tore l'ha visto. L'ha visto tutti quel telefono nuovo di oggi, Tore, al TV? Sì che l'ho visto, è da un mese fa che lo stanno dando. Ma non in televisione, no, in televisione l'hanno dato ieri, l'hanno dato. E nel fatto di cose, la nuova generazione. È morbido quando ti tocchi quelle cose, mi. Capita, Luca. Lo sto guardando adesso, allora, anche Huawei ha fatto un telefono pieghevole. E poi, tanto sai, pigia, vedrai che si consuma tutte le cose che va da reddito e andai a ammara. Allora, qua dice, vabbè, posizionate tra fotocamere, il Mate X avrà 8 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e sarà disponibile da metà 2019 al prezzo di base di 2230 euro. Mamma, qua 300 euro il biglietto io. Allora io ci sento male, mi pare che abbia detto 1200, boh. E quindi non è una cosa per noi, non ti preoccupare, lasciare un compare già rimane in TV, vedrai che fra un paio d'anni abbassano i ribrisi. Ah va, ne vedi, niente, vendi la villa, va a pigliarsi, e pure ne giri i debiti, ma chi si imbriaccio? Ah no, Tore! Aspetta, stanno chiamando, chi è che chiama? Chi è che chiama, avanti? Ho provato tutto, stavo chiamando. Chi è che chiama Valluca? E voi dice, c'è qua, dove non vuoi far intendere la voce. Riprendetevela. Sì, ma comunque sono esagerati con i prezzi, cioè alla fine, come questi telefoni qua, questo che ho io, costava all'inizio, ah, questo che ho il telefono, il tipo l'aveva pagato, 930 euro. Ma che è andato giù pagato, non mio, eh? 1160 euro. Per farti capire che c'è, sono prezzi esagerati. C'è un telefono in un mese di lavoro, se ti fidi. La verità, io questo qua mi trovo benissimo perché a memoria ce ne ha abbastanza, per come lo uso io va più che bene. So che mi si è rotto lo schermo, ma già funziona lo stesso. Ma che telefono è? SSI Edge, 64 giga e 4 giga di RAM. Io ho il 7, figurato un poco, e 256 giga. Ma io per come lo uso va bene, togliamo il posto, va. Ne ho preso la metà ancora di memoria. Va bene perché naviga bene, veloce, no, mi dà problemi. Ne ho avuto tanti telefoni 8, Tanti. Questo è, diciamo, uno dei pochi, dai. Poi, vabbè, ce ne sono superiori, Non è che non ce ne siano. Ma costano troppo. Poi c'è Graziano, il tuo quanto l'hai pagato? Io l'ho preso con gli sconti in offerta tramite internet. Mi pare che l'ha pagato 170, una cosa del genere. Però a me mi sta bene. E Huawei funziona benissimo, è veloce anche tutto. Anche l'altro che c'aveva era Huawei, però come mia moglie ne aveva di me, mi si impallava spesso a me. Sì, anche io questo che ho io non mi ha dato mai nessuna preoccupazione, vi raggio 2 anni, vi raggio, quindi non mi ha dato nessuna preoccupazione. Ma su internet se guardi, allora sai quanti ce ne sono di quelli che prima costavano una barca di soldi, adesso mi con gli sconti, occasioni nuove dal negozio non usato, un bel padricitti di ricudina a faccia, e prima costavano una barca di soldi. Guarda che rincondizionati li trovi a poco prezzo, li trovi. Ho visto che ci sono anche di quelli ricondizionati a pochi dinari, non l'aggiungo. No, ma io li ho sempre presi nuovi, non è meglio mai usato. Buffo! Ehi, avanti, avanti! La porta è aperta! Dormi tu, sì! No, sveglio sono! Ah, sa cosa stai facendo? Eia! Ehi, you! Sì, vabbè, ma ricondizionate alla fine, non è che... Allora, quando io l'ho preso, questo qua, che era di un banchiere, mi ha fatto anche un prezzo buono. Si vedeva sotto la tastiera, nel display, no? Siccome era in garanzia, me l'hanno cambiato. Poi il telefono è diventato nuovo, fiammante. Io l'ho anche aperto, dottore. Ho cambiato la batteria, solo che con la batteria che ho comprato non durava. Infatti l'ho dovuto riaprire. Staccare la batteria nuova, per modo di dire, cioè mi dura più la vecchia che quella nuova, e adesso appena la ricompro e gliela cambio. Se la devi fare arrivare dal coso, da internet, da come si chiama, dall'Apple, la paghi 20 euro la paghi. Ah, ma tu c'hai la Apple, tu c'hai l'iPhone? Sì, no, è quello lì che c'è, è Giambano. No, il mio è Samsung, Android. Ah, Samsung. Ehi, vabbè. Io che raghi sono l'iPhone. No, l'iPhone non mi piace. No, non mi piace. No, mi piace. Io ho l'iPhone. Io l'ho bagato. Viaggio 2 anni. E ho il 7. Ma io un bel soldi non ce li butto sul telefono. Non ne vale la pena. E poi per quello che lo uso io. Uno che magari lo usa anche come per lavoro, queste cose così, Allora sì, ma per pigliare uno così, e non lo usi per lavoro, non ne vale la pena spendere una barca di soldi, ma... Non è che non li piace, grazie, è che non lo usa trattare, che ti pensi. Affamore! Affamore! Un pochino di che faccio? Oh, appoggiato al tavolo sono, ma diviso un caffè 10 minuti fa, alla faccia a faccia, di chi non voleva. Buono è, la vazza qualità rosso. È vero. E allora, e non è te, giù, cosa ti ha detto Luca? Chi non li sei trattati? Ma che tu non vado, Pantoni, va. Perché quelli ce li ha autocostruiti lui, poi gli fa un poco di cubicatura ed esce perfetto, diglielo lui. Ma cosa stai a perdere fiato per dirlo a Luca? Guarda, che bisogna farne un disegno per fargli capire certe cose. Bisogna farne il progetto. Vino, quella sta pellete quadrata, non era rotonda, quadrata. Quello sportellino le serviva per caricarla, Luca. Non so quale stai dicendo, aspetta che mi riguardo i messaggi che ti ho mandato. Sta prendendo un negozio da Bongino. Supposa. È quadrato il tubo di spiato, là. Chiamiamolo tubo di spiato. È un palo quadrato, fatto da un palo quadrato. Poi traversale c'è un altro pezzo di tubo rettangolare più stretto. Rettangolare. Con lo sportellino. Poi c'è un treppiedi. Luca, è poco funziona. Una bomba, Quello, sì, praticamente quello trasversale serve per caricare il pellet, la legna, e l'altro serve come per uscire il calore, e quello di sotto per entrare l'aria per il tiraggio. L'hai visto? L'ho visto poco fa. A gente c'avevi, funzionava un treno, Funzionano bene quelle, anche perché puoi caricare sempre di continuo, capito? Man mano che scende, tu continui a caricare, lì sta sempre andando. Quello serve per tenerla sempre accesa, no? Mano a mano che consuma, tu lo carichi da lì. È bella quella, Caspita! È anche una cazzata da fare. Sempliciotta proprio da fare anche. Sì, ma è carina anche come estetica, perché non è rotonda, capi? Poi c'hai tutto, lo sportellino. È ben fatta, come prototipo è bella. Ciao Mari, che facendo c'è? Ehi, sempre facendo, me la sto. Ma sempre che stai facendo, Ciao Mari? No, ma l'altra me la sto passando. C'è qualcuno basso che chiama, ma non lo sento io. Chi è? Non lo sento, boh, vedete voi. Io non sento a nessuno. Boh, Tore, a nessuno senti tu? No, non intendo a nessuno io. Quindi, solo tu li senti, Luca. Cos'è? Sensibile che tu sei apparato e vai tu. Boh, sento qualcuno che chiama, se vuol ti dica. Boh, buonasera Gianmarì. Luca! Ciao Tore. Buonasera a circolare a tutti. Belle brutti. Ava, perché ti stai riferendo a Luca? E perché ti stai riferendo a Luca lo stesso, Giomari Belli? Luca, sono tu te, ragazzi. Beh, da te a lui c'è un abisso, cazzo. E a pensare che è in alto. E tu sei più in basso. Arrivi più bene tu che lui. Ma lui è capito, a chi ti bresci. È per quello infatti, Oh, non lo sapevo, adesso lo so lui, Luca, che hai finito? Famone! Poi no, che si sono rimasto male, No, e qua ci sono i Mau Mau. Occhio, Gio Mari, non ti vedo assai di chi, occhio. Sta a fare un mito, la bontà a dire. Ebbè, lo chef, ma che aiuto lo chef? Tu capri com'è? Che adesso mi scorgerò per te cinghiale. Siamo voluto, io vedo qua da fianco, lo vuoi? Fine, vabbè, non siamo ancora. Se per te cinghiale, che cane che manca da Sassari, più di uno ne è mancato. Graziano! Dimmi! Chi stava chiamando Gio Maria, non lo sentivi? No, che mi ha chiamato mia moglie e mi sono spostato, non mi sentivo, ero giù in camera da letto. Ma Gio Mari, dimmi tu. Mi c'è lo chef. Lo vero, l'ho chiamato due volte, non mi ha risposto. Forse era in ufficio e non mi sente a me. Ma non lo sente Gio Maria. Ehi, aspetta, sto facendo cosa, riprendi. Ma se hai risposto a Luca adesso, dovresti rispondere anche a me adesso. Vabbè, 1-0, Non posso parlare quello che sto facendo. E allora perché stai parlando? Per carità, adesso su che sei la re. E beh, bello, che stai facendo? Mi pare che la tua compagna c'è la campagna mia, Gio Mari. Allora, non ti sento lui, bisogna fare la voce. Gio Mari, io sono colì con portatilino, quando mai non mi senti? Non senti neanche a Graziano, solo a Luca senti. Adesso ti ho sentito, perché hai sollevato la voce. Se tu parli sotto metafora, è chiaro che non ti sento, no? Ma tu devi alzare il volume, non io la voce. Tu devi alzare la voce, non il volume. Fra poco mi sono nel campanetto a vedere cosa che sono capoti. È vero. Ma lo farei con l'interruttore o Lu? E Lu? Domani mattina passo, dai. Passa. Che prendiamo con l'attrezzo per mettere sotto, ti ricordi? Me lo dai e me lo metto in macchina. Stavo dicendo, così che ti porti via anche quella stampante. Va bene, Gio Mari. E Lu? Ti guardi una cosa di stampanti, puro. Tu fa pellet, lascialo fare. Ma mi sembra che c'è un certo Tore Squalo, pure c'è ancora. Sì, è vero, già ci sono, Gio Mari. È strano, Come mai sei in giro oggi con lo cagnolino? Oggi ha fatto lo giro, quanto tempo ce lo devo fare? Stanotte va a regalo. Puglio? Prima di Gucame. Lascia aperto, mi ci metto. Cosa vuoi di vozia? Cosa volere che ti faccia? Anche loro hanno diritto di uscire a farsi una passeggiata, dai. Vedi che siamo così, dai. Avanti, Lucrezia! Luca! Bagliami in bocca! Certo! Ma a volte sei tu! Che avanti! Chi sei? Antonio! Antonio, riserva! Forte e chiaro! Cianto! Gio Mari! Ma pronto, sì, per questa antenna, sì! No, ancora no, però lui, dai! Lo facciamo un mese entrante, dai, quando fa più caldo, ragazzi, siamo più tranquilli, possiamo lavorarci tranquilli la mattina, capito? Dai, sto scherzando, già lo so, ci vuole una giornata bella, perché altrimenti se c'è vento, una giornata calda, dai, così sudi, come abbiamo fatto l'altra volta, petto nudo. Luca si mette la zavorra, ragazza, che ha freddo sempre lui. Non risponde, no? Il periodo giusto sarebbe aprile, ma non oltre. Allora sì che lavori tranquillo. Non lo sai, ancora gli hai dritta, preoccupata. Non la padrona ci ha ridato i mani, chi era di ammazzare ancora per il periodo, l'ho capito. Tanto abbiamo tutto. Abbiamo tutto, luci che aspettiamo la giornata giusta e si fa quello che si deve fare, capito? E lui? Allora, se facciamo buratore come abbiamo fatto l'altra volta, così che siamo io, Flippera, Luca del Monte, Ettore, Cattane la faremo, se la semo e la cochemo buru. Beh, anda. Vai, Ettore, non vi passa più, dai sabotto, la va. Davvero? Cos'è, Luca? Cosa ha detto Gio Marì? Come? Cosa ha detto Luca? Che ha compreso, parla da te, ambe dai. E poi parla voce bassa lui, capito? Sono un po' sordo, io, cazzo, ma lo dico io, cazzo. Ha detto non ci passi dalla bottola. Ehi, tu magari mi sabbano. E bisogna pulirti, come si chiama? Ci sono i gipanza, cazzo, va a passare tu. No, Tore non ci passa. Ehi, se lo passa a Tore, chiaro che lo passa. Tore dalla materia lì, però so. Cazzo, non so con bui. Cazzo, va. Di nuovo di sicuro da là, ho capito tu. Ti ghiaccio. Tore sì che è l'agno, ma è tu che vuoi la panza di voi fare, non vi basta. Si sarà luce di soceni. Che si cosce di pollo. Morello. Mi ha tatuato i burri cosce di pollo, tu. Le bistecche di maiale, le capocollo. No, la bistecca che maiale non le mangia lui. Mangia solo cosce di pollo. Coso. Come ti ha? Cinghiale piatti truppa, Edo. Oh, ripeto, ci hanno regalato un pezzo, ma buff, pascalità, cinghiale. A chi piace, già è buono, vai. E Luca dice che mi sa fare, sa cucinare bene. E meglio assaggiare quando lo cucini lui. Gio Marì, cinghiale vuole messo mezzo al vino prima. Lasciato un po'. E poi tolto e cucinato. Ehi, allora lasciate su un po' di giardino, voi. Andiamo a vedere. Il giardino vuole prima Luca. In mezzo a rubino, che giardino. Ha detto vino, no giardino. Oi, Tore, teso. Gio Marì, non è in giardino, no, è mezzo a rubino. E abbiamo compreso in mezzo al giardino. E abbiamo compreso così. No, in mezzo a rubino a Sirinà. Cavanne che so ammarognalo. Ma Luca no, non è che non vuole in mezzo a rubino. Non per dire di tranciallino, vero lui? Si ripiace così. Io te lo pongo in mezzo a rovino prima. Ma sono un paggio d'ore da voi ne rugavo. A vedere che ci buono. Anche da voi si braghezza, chi sa garra, ragazza, non li mangi sto. No, che vuole fatto così, vuole fatto. Il cinghiale gli leva un po' di salvatico, di quel sapore salvatico che c'ha, vuole fatto così, me lo bei. Davvero? Se lo sai tu, io non sono cuoco, per cui non ho mai cucinato perché non mi è mai piaciuto, capito? Se non lo fai così, se tu l'hai cotto senza farlo così, è maru. Vero. E allora, brappè! Luca, sentita graziale attore, metti prima nel vino, l'imbriaghezzi da buon cucino. Vabbè, si mette nel vino, dicono, per levarne selvatico, ma... Ma io li ho mangiati, gli gnocchetti con il sugo, fatto sugo con il cinghiale, buono, buono, però se non lo sai cucinare, un casino, ma a me io manco non mi interessa, non... e lì in freezer e lì muore, ma fa assai. Insomma mi lo fa bollire dal cane. Luca già lo sa fare, Luca! Ci puoi scommettere. Assaggi il mio, non ne senti di tutti questi gusti, o sotto vino, o sotto spirito, come ti fa di graziano? No, io lo tolgo dal congelatore e lo faccio. Non lo pongo sotto spirito, assolutamente. Ma così c'ha troppo quel sapore di selvatica, a me non mi piace, a me niente non mi piace, fatto normale, al naturale così. Se invece tu un po' ne assalamoia col vino un paio di ore e poi lo fai sgocciolare bene e lo cucini, così c'ha, è buono, di da maniera va un bel di sapore selvatico, e a molta gente non piace, è come la gallina sarda, quella allevata come quella che avevo in campagna, a me non mi piaceva, quando l'ammazzavo ma cucina, non ne mangiavo, mi mangiavo solo il brodo, se faceva la minestra a brodo. Uno che rimane anni torti di la palla. Ma si è fatto così, in agrodolce, o con i piselli, si gioco di zenne, e non ne senti il gusto di selvatico. Chissà che te l'ha fatto mangiare e ci sei rimasto male. L'ho fatto mangiare anche a mia nipote, che è proprio non mai assaggiato, però mamma mia, bomba, beh, si era mangiato un piatto. Anche se scioglie in bocca il sapore selvatico non lo senti. Quando lo vuoi, guarda, io te lo faccio tranquillamente, tolto dal freezer e senza buoni salamoi e senza buoni sottospiti. Guarda che a me me l'ha fatto vedere a Funi, quando viaggiavo, che lavoravo, andavo in questa casa di questa signora a pranzare e pagavi, no? E tutte le volte c'aveva il cinghiale e me l'ha fatto vedere come lo faceva in agrodolce, levato dal vino, a chirubunia e salamuglia con un vino, ed era un bombò, un burro squisito, buono, ma buono mio. E io te lo faccio assaggiare senza il mio vino e senza niente, fatto in agrodolce. Vabbè, un attimo che devo rispondere al messaggio. Eia, no, l'ho assaggiato io, come stai dicendo tu, il saporaccio di selvatico ce l'hai, fa schifo, pucci. È la pellice come la, su un vino la metti, Graziano. Io penso che per semplicemente un vino metterò. Se hanno un sapore di selvatico, ma tu devi dire il sugo della pasta asciutta, le pernici no, quelle le faccio in agrodolce io col sughetto, le faccio, però quelle non le metto in mezzo al vino, o lo faccio in agrodolce oppure col sugo o col sughetto e ci metto i capperi. Buon arido, cazzo. E poi che buono giù, con le spaghetti che mamma mia, ogni mangiata, cazzo. Ci metto il mirto, se c'ho il mirto, rosmarino e alloro, la zioda che si arruia, bella drittata, e due o tre finocchietti di campagna. Esce un bombò. E qua quando è cosiddetto il bombò, una bella tazza di vino bianco. Ma va bene anche, accetto di vino, prima me lo facevo io l'accetto di vino, sia bianco che nero, però accetto vino di proprietà, non vino imbottigliato. Ma lo prendevo e lo facevo diventare accetto, ci mettevo gli spaghetti dentro e diventa accetto. Quando era bello saporito lo adoperavo. C'è un vicino là, il gatto selvatico, ma era mangiato. A voglia è nato mangiato di gatti, a tertenia, a voglia, pure a persa se fuoco, gatti selvatici. A me me l'ho fatto a mangiare. L'ho scogliato, l'ho messo Ah, se ne lava l'ultimo, tutta rotta, se ne lava, in domani l'ha cucinato. Ah, già che lavora fino. Gatta, ma buono, Guarda che a Tertenia li prendevamo, li cugliavami, li lagavami a Cirinà e l'indomani ci ricucinavami, pure tre o quattro, perché scendevano da una montagna, li mettevamo la coretta da pesca con l'esca, quando erano i magnini tiravami la coretta da dare giù, lo vaccoli di la casa e li ritiravamo fissamente a Trento. E poi Trento si ricudiava Trento la marmitta, ma baciava un tappo e lo bugia. Dopo che la morte non bucava e cugliava. E ce ne fa, Luca! Aspetta, aspetta Giomari. Trappiccia. Cosa si mandava il cattatore? Ehi a Giomari, il gatto selvatico, non l'ha già mai mangiato. Adesso non la pizzerà e pizzare campagna, ragazzi. Grazie, che pizza, si capo che la rivolito. Ah, sono passati i cinesi. Non lo so chi ha vinto. E aprila, no, così vedi chi è. No, gliene era accesa l'ernia, Ghissu. È lui. Fatti le macrodolce, grazie. Chi c'è buono allo spiedo? Fai finta che sia lingua. No, un'altra cosa che non mi piace, non ho mai comparato, che schifo. Mi Gianmaria gli piace un bel la ringa, si la base a buddito, così è Gianmaria. Che cosa? La lingua. Sì, la lingua del bue, sì. E io l'ho preso sempre. E me la mettevo a parte sempre. Questa materia di sotto la Marsanna. E la miscio, mettevo la lingua più la carne di brodo, capito? E mi mangio quella io. A me non mi piace, pucci. Luca, a te ti piace? Anche quella è una prodotta, è buonissima. Guarda, fatta così solo io. Guarda, mi piace un bel. Anche perché carne, frutti o buona veramente. Ma a me già piace. Mangiata! Mai mangiata! Io no, l'ho assaggiata e fa schifo, non mi piace. Cioè Maria si ripiace un bel. Meglio sì. Cazzo, mi pare che lancio ancora il bozzetto, vi lancio un paio per male, capito? Perché quando faccio le prove ci metto sempre la metà del secondo quarto grande, la dico, che la taglio in due. E ne metto un pezzo in mezzo alla scala del brodo, ma faccio il piacere, perché rimane asciutta e metti il pezzo di mano asciutta, rimane un po' molto più grosso là. Non ti piace lui? Cristian Solina sta vinto. Ehi, ormai, però era stato il punteggio qui fa. Cristian Solina, era ora. Chi ha vinto? A quanto pare Cristian è in testa, Cristian Solina. Oh, Cantubari, ha vinto. Speriamo bene. Ore. Ehi, Gianmarì. Dimmi. Io gatto, bisogna cavare che cosa, se non ci ho fatto di mangiare, non andare, bisogna cavare qualche cosa del buono, gatto, che sempre l'appetito, gatto, se non gli dà ragione sto. E cos'è? La gatto, anche dove darsi la riga, anche dove darsi la gatta, anche dove darsi lo cinghiale, boh, la fame, boh, a fila, si se la mangiano. Io sto a dieta. A dieta sì, oggi ma me l'hanno detto, dice, deve fare la dieta. Troppo pancia, dice, troppo pancia, e si abbassa. Cattosso come viene quasi nulla a fare la dieta. Oggi se mangio quello che mi ha detto lei, ho detto, mi trocco in un paio di giorni, mi trocco in due. E te l'ha scherzato io che mangio poco, io non è che... la costituzione mia è questa. Non è che sono un magnone, si deve dire che mangiare da nulla, non si dico niente. Andiamo, vai, andiamo, bobo. Gio Mario, anche mamma, per esempio, stava bene, poi, mi piace mangiare, inutile, mi piace mangiare. E così è Luca, me la mate si cosa, poco imbutti, insomma. Il saccheggio mangia pure a me i cantieri. Ah, guarda, io mangio poco, non è che mangio molto. Cazzo, ma proprio altra roba, no, sì. La pasta asciutta, se sono tutti i giorni, io la mangio, perché mi piace troppo la pasta asciutta. Per esempio, oggi ha fatto il minestrone, è buono, buono veramente. Cazzo, dico, un piatto me l'ho mangiato, però ho mangiato un panino, i fusi così, cazzo. Un arancio, anzi no, cos'è che una mela già mangiata, sta gutta. Sì, Gio Mario, comunque, vabbè. Chi mangia deve fare anche movimenti. È quello, mamma magna, ma cosa magna? Magna si zigocca. Ma a certe notti io non mangio niente, capito? Mi faccio la capomilla e me ne prendo un bicchiere di quelli di plastica. Certe volte non mangio nemmeno, ti puoi immaginare, no. Aspetto, a che volta magari esagereggio, però è raramente. Quando esce fuori magari mangiamo il ristorante, magari allora mangio sinceramente, ma a casa mangio poco, non è che mangio. Frutta già la mangio, Certe volte magari, siccome io la frutta la mangio tutto col pane, un panino e mezzo me lo mangio. Tutta la frutta con il pane, mangia anche l'arancio. Cazzo, se ci vuoi 42 mi domani l'arancio. Però con un bane, senza bane non mi si fa la luce, il d'arancio, la bera. Io gli ho sbagliato il cimerone giallo, ha sbagliato. Cazzo, ci ho mangiato con il bane. Il pane è carboidrati, capito? Poi ti mangi magari la pasta, il pane, Che vuoi che da fare, che dito così? Tutti mi dicono di dimagrire. Cazzo, se peso 72, io non è che peso assai, 72 peso. Qualche voce ha già aumentato 73, ma più di sul dato lo ando io, capito? Così che non è che sia grazie, la barza. Sai cos'è? Siccome c'è la digestione, sta magari a chi mi vede quella barza e mando, capito? Luca verrà più male di me la barza, cazzo, a me la tiro. Ma vabbè, per tutta la persona, vai. Ma Luca magna pure baracchini, microfoni, antenni. Ma io riesco a digerire il suo cosetto. A filo. Pannelli solari, magna. Ma Luca mi piace il microfono in rosa. Tore. Io Gian Mario, sono qua. Ah, fettina. A te lo dico, fai la dieta a te. Sì, ma mi ha posto a dieta, lo dottore mi ha posto a dieta, Cioè, lei sta andando bene così, continua a stare così. Ah, gli toccata, non ti basta come ti gioco. Ma... Ripeto, non è che... qualche volta magari, così, magari in compagnia mangio qualche cosa di più. Ma ci sto con la rasura, noi non... Andiamo un po', Tutta ripeto, ce la mangiamo bene. Capito? Ma ti dosino, caro, non viaggio a me. Arriva con tu una cosa di mochito, che a te un pezzarello hai immaginato. Cazzo, ti puoi immaginare, no, manda, magari è troppo. Forse che l'avevo mangiato troppo, capito? Ah, ma fai dungiare il carro, cazzo, è chiaro che l'hai stufi, no? No, io di maiale ne mangio un paio di pezzi, non è che sono così e coso. Di maiale, e poi un pezzo d'agnello, un pezzo di goso, ma che mangio così in magno? Bah! No! Agnello! Un pezzo di magno, basta, ma un pezzo lì, non assai, Per dire, ecco, la tessina, a me piace la tessina, ecco, infatti, noi li compriamo apposta proprio, perché a me piace la tessina, e la traccare se la mangia lì, scarpe. E da che mi mangio la testina dell'agnone, poi sono tranquillo a pranzo, quindi ho pure a cena, capito? Mi basta, magari due pezzi di baccato e un pezzarino di male. Grazie! Graziato, Graziano, deve lasciare in buccioni rubattato. Battato e buccioni, e in te, Luca. Mi sa che pure Luca in buccioni battato. Cazzo, ma saluti. Oh, che lo fa da Ruzzi con il battato, come c'è Graziano. Graziano, fate il fuoco. Oh, così, giacino. Così è, c'era un battato e la ziota a Russo, capito? Mi fa genere di... È arrivato in poco la ziota a Graziano, a Russo. Era un battato. Luca sarà così, Luca, fate un fuoco. O tiro se lo può diretto lassù, farò così, la buona buccia si romagna. Vero, Luca, flippala. A chi mar vuoi? Push, push. Buonareggio, azzetta, azzetta, per cominciare le 20 di. Chi lo vede, lo bracciere, andendi. A chi ripete va? A Camilla lo bracci. Le rotti va. Vabbè, ma fai irai dell'orto portanico, no? E allora? E le fragole facendo le sai? Sì, sì, tutte le fogliette nuove sono uscite. E crescenni. Oggi mi lascio via una cassetta. Mi devo, oggi mi fosse la macedonia. Mele, banane, chife, da buccia che vuoi. Le fragole. E un po' di tutti si bocca in mezzo, è poco ci vuole. Anche io la faccio così. Che c'è? È un bel di fragole. A chi ne voglio un bel fragole io, un bel. Deve essere ruio deve essere. Ogni passo me ne mangio un bicchiere di quelli di plastica. Beh, sto tranquillo, boh. No, oggi, oggi, stamattina mi hanno portato due barattoli di marmellata di pesche fatte in casa. Buon avviso. Marmellata di cosa? Di pesche. Di pesche? Pesche. Oh, la marmellata buona di pesce fate? Le pesche, la frutta. Ah, le pesche. Questi sono buoni, gatta. Questi sono buoni, gatta. Quella sciroppata mi. La salina, giù mi la salina, un mese passato, un barato di suvretti, manni però era rubato, fino alla bocca, mi pare fino a un chilo finita. 6,80 euro. Ma finirà un bene. Ah, già che te lavoro, cazzo. Non si metà, duvida. Sono buone, sì. Questa marmellata non c'ha conservanti, non ne ha. E manco zucchero c'è. Naturale. E poco è buona. Sì, ossia i peperoni, ce l'ho fatta. Già che sono buona. Cazzo, anche i suoi bucciati e tutto, capire, le rigavi. Che era appena di aceto balsamico a bue. Poi gli oliva appena, gatta. In tenere sapore. Ma io peperoni noi ne mangiamo assai. Già non ne posso mangiare nulla. Anche massari e già riminuzzi. Ma sono sbucciati, non quelli senza sbucciati. Sono fatti apposta, sbucciati apposta, capito? Non dovrebbe far male, però. È chiaro che magari la pattuglia che c'è in te magari non va bene. Ore! Già sono qua, vi sto ascoltando. Ma se non ci dici qualche cosa, gatta, io. Ma come andiamo di dire, saluto? Sempre chi so, Giumagno, io. Sempre chi so, tanto, fate i miei ziri. Se no, poi faccio difficoltà di giri. Un po' che ogni cosa, cazzo, cazzo. Tu fai un pezzo di ogni cosa e mangi vero, ma te si esagerà, capito? Specialmente la Ruzzi, di tenersi sempre leggero. Vediamo un po' se rientrate il signor Bacchisio, Ma chi io? È Luca che fino a qua. Sto documento, sto. Qua sono qua. Ah, mi sembra ho sentito Bacchisio, Bacchi. Tormento sto, buonasera a tutti, quelli brutti, avanti di Graziano. Ciao, però alza la voce che sei sottoterra. Sono piccolino e nero. Ma così non ti sente Gio Maria. Gio Maria viene qua e le parlo nelle orecchie. Così a ti sento, ma se parli a voce bassa non ti sente meno Graziano, gatta. Così a ti sento, Bacchi, buonasera. Buonasera Gio Maria. E Graziano stava lamentando. Se viene qui lo parlo nelle orecchie. Ehi, amici anche signor Tore lì. Signor Tore. Ehi, buonasera signor Bacchisio. Buonasera signor Tore, come se la sente? Insomma. Andiamo bene. Graziano che si sente bisanti. Balle so, la mia è sempre nudata. Là, se la so con Carreghenni. Hai inteso, se le Carreghenni, le pompendi. Come tendi la cosa, la pastiglietta che tenda va. E allora, blu, il cielo è dipinto di blu. Solamente un coso, un principino. Dimmi il Gio Mario. Ma io lo sanno senza dirlo io, grazie. Già lo sanno loro già. Se manca il blu, non c'è niente da fare. Luca! Luca! Cosa stai combinando? Stavo leggendo il telefono. Stavo leggendo il telefono, Giovanni. Niente. I messaggi, dai. Allora praticamente un panino con la cordula. E in vari parti d'Italia la chiamano in una maniera o in un'altra, capito? Cordella, vabbè, noi la chiamiamo cordula, che si chiama in sassarese? Come si chiama in sassarese? Giovanni, come si chiama la cordula in sassarese? Cordula! La cordula! Prova di lanciarla, vedi! Signore, come si chiama grazie a chi sei a Rignone? Minuzzo, so! Capito, è lui! Ehi, sa mettere le zanzone! Chi sa, ci si dice sta cosa! Sta cosa! Eia! Sa mettere di zanzone! Non può essere Luca Frippa, ragazzi! Luca! Di fuoco stai facendo? Pare che sia a vola, io come se ne ha in un'altra graviglia, E se lo fiaga, ci abbassa, ma si è bruciato, gatta! Non si sarà uscito il benagnolo per caso, no? Luca! Non ti risponde, no? O a sedere la stufa, grazie! Ne va a se accendendo gli stufi, no che ne ha 4 o 5! Addirittura! E allora, così non accende la stufa a pellet, scalda di più e consuma di meno! Andrà bene! Avanti, signor Bacchi! È proprio così! Consuma meno e scalda più. Vediamo a Luca se mi ascolta. Buonasera, Luca, mi ascolti? A chi? A tra la voce, sì. Segnale buonissima la voce, basta però. A tra la voce, non ti preoccupare. Capito? Già vera, lui si sente a paraola. E tu, dottore, come mi occupi? E cosa vuoi che ti racconta? Nulla. Nulla. Non è argomento, non vedi mangiare, non vedi il vino, non vedi nulla. Graziano, ha perso tutto, ha perso. E cosa? No, vuoi dire che di cosa che ha gana di mangiare, Bacchisio? Cosa vuoi mangiare, Bacchi? Dillo a me. Adesso mi mangio una frittella, poi vediamo un po' cosa succede. Non ho copiato, ripeti. Aspetta che adesso mi mangio una frittella, poi vediamo cosa succede. Buona la frittella, buona, dolce mintata, non ci mettere molto zucchero però. E non andare forti con l'anice. Quella col buco, Emmi. Ah, la ciambella bucata, buona, buona. Ovvero, ovvero. Avanti, no. Torre, mi assento un attimino, dai, riprendi tu. Ehi, ma chi? Mandati una parte mia, buru. Ehi, ehi, mi ha arricata va. Ehi, vai, due, giovedì mi metto a farle. Quelle lunghe. Gio Maria, guarda la foto su WhatsApp. Non c'è, si è assentato Gio Maria. Aspetta che cambio radio, dottore. Ciao Marchisio. Ciao Luca, sono poco fa, non mi hai risposto, sei impegnatissimo. E quando vedi quell'amico tuo, dille grazie del lavoro, Luca! E a to. Ma che Bacchisio ti ha detto una cosa? Dimmi Bacchi, scusa, adesso con il telefono, con la radio su cui scendi il capo, dimmi tutto. Aspetto a ringraziare il tuo amico del lavoro che mi ha fatto. Ma ci è venuto? Sì, mi chiaro sonno. Cazzarola. Ma sai, mi si chiamano le scatole, perché poi alla fine io sono di quelli che poi non chiamo più, se... Non chiamo più, cioè come se tu chiami a me, per dire, faccio un esempio, no? Do un amico tuo a sistemare l'antenna e poi non ci vado più, tu non mi chiami più a me, e così farò io, dice se ti capita qualcosa mi chiami, no, ma non ti chiamo più. Luca! Giulio Marì! Fai con la stella! Visto l'hai? Ehi, cazzo è il problema marino, cazzo è il marino! Cazzo vede un metro! Buona, una volta Maria si ha fatto, il giorno della cavalcata. Ma per carità, l'ha fatto male, se io ero un panino Gio Mario, quasi a chifo. Ma non era buona, poi non era, ne ha messo un pezzettino piccolo, c'era più pane che. Sì, io ero un panino, per carità. Quella però è più buona con i piselli e il sughetto, non arrosso. Con i piselli e il sughetto è più saporita. Ehi, non ti piace Ruscio? C'è la mochisuia. Cioè mi piace, ma è più buona. La mangio più bene con i piselli e il sughetto io. L'ha giubata da poco un burro mi, di qua. Mi sembra il mese scorso, vero Paoli? La gordola non l'abbiamo fatta il mese scorso. Ehi, arrosso l'ha fatta. Ebbene, cagliuti zitti, Luca. Ore. Ehi, grazie. Ascolta, io mi devo assentare che sto andando a prendere mia moglie da mia figlia. Ok, ci sentiamo dopo, se ci siete ancora. Ehi, ok. Ciao, Mari. Ehi. Ebbene, ti sparisci. No, io mi ero assentato che c'era la Bri. Eccoci qua. È Luca, boh. Luca è da Falaggio, va, che su Marino, che su una bagnotta, Gatta. Un metro di coratella, va, in mezzo al Marino. Ma a me mi piace più con i piselli. La rossa non è che mi attira molto. L'ha cucinata il mese scorso, Paoletta. Ho mangiato quei piselli la settimana scorsa, io pure, dai. Sì, no, però non era quella dell'agnello, La cordola era quello che abbiamo fatto quei piselli. Era la cordola, cioè anche quella dell'agnello in pizza, Ma abbiamo cotto la cordola, capito? Già è buona. Già la mangio, però noi ne mangio un bel arrosto. Invece con i piselli già me ne mangio di più, mi piace di più fatta col sughetto. Anche, Bacchi! Eccolo qua! Allora io, cos'hai combinato oggi in campagna? Zero, riporto zero. Bobo! Claro, Bacchi! Mi sembra che stai pensando un po' a poltroncino, per la campagna, Pensa al vento, già si pensa al vento a darmi lavoro. Oh, io sono svampato lungo col cime, in mezzo alla grume. Ci si faceva, va, Ah, ma che scioglio, pagarina, che non lo voglio molto zappare ancora, bacchia, lo zappa cosa. A chi si va da voi come se fosse a passare in un zappato, gatto, se non andarsi in terra, a mano due baccogli prima, che se no ti schissa se sei molto zappato, ti fai a bere. Bisogna, se non asciutta un po' con la terra non si può molto molto zappare, che è muta ancora, è muta, capito? Non si può fare nulla, per la neve, per lo spugliatore, tagliare erba, pulizia, capito? E che fai a venire? Tanto lo vento mi ha dato che fare, mani, la serra minore te l'ha fatta volare. Ah, che ci mettono la lampada un po', tutta una lastra la lampada, per careggiare, cazzo. Oh, già viene la truppa, Ah, in terra viene la truppa, viene il truppo, capito? E forse era, non ti lasciava in piedi, non ti lasciava in piedi, arrivava a Manzano, troppo, troppo. Ma arriverà un tempo buono, puro, e fermo a che cosa? Avanti, grazie a... Graziano, e controllate si farà la... si fa la cosa, come si chiama, la gorgia del bossetto. In secca di magna, In secca di magna, Graziano, Cazzo, all'attenti, Graziano, bacchi. Ed è a farmi sempre, devi mangiare, se non mi ci fa da lattare. Ah, ecco, pochissimo che sempre mangiare, cordola. Saraghi, poi merluzzi, tutta questa roba un poco squisita. Eia, oggi risotto al zafferano, ha già mangiato uova fresche di gallina col sughetto e la salsiccia, peretta di nuvolo, poi accompagnata con il prosciutto crudo, carciofi imbevuti nell'olio con il sale. Ai c***i! Bebo! Operato, grazie. Ma chi è la sacra famiglia, vera Magnelli? In cinque eravamo. Gianmarì. A chi ti conviene fare l'avvecchiamento, non invitarla a mangiare? Hai visto tanta cosa elencata? Avevo lo coso, la motocarro per ricordare la roba per mangiare. Adesso come fa a fare la ricevetta? Noi vi stiamo a mangiare, non saranno. Magna troppo, poi un bisir buono, non so io. Se sta che andare a piena questo sacco che fa, dai questi già. Basta il periodo. Fa contorno poi, sono appunto la cosina. L'olive con lo scolglurio, la cartoffa. Sott'olio, qui c'è la chiusura. Buona rete, carciofi freschi, primo taglio, tennari, il gambetto, un burro era. Ecco. Lo trucco della cazzoffa. Con l'olio di Cagliamari, i trucchi di piatto da Graziano. Buona rete, così è. Buono, poi una bella fetta di salsiccia sarda e un bel pezzo di peretta di nuoro sarda. Buona rete, e il pane Carazzau, imbevuto con l'olio d'oliva. Pane Luciao. Cutia, ui, buona reddu. Dopo Gianmarì, aveva chiesto l'elencante di tutto, faceva se muore della fame. Ah, e le olive nere con olio, prezzemolo e peperoncino. Ci sei sempre in ufficio, gatta, che ti frigge del troppo. Fate in casa, buone, proprio, più ne mangi e più ti attira. Poi parrimpicciate un poco, un pezzo di beretta e due tre rotellini di salsiccia. Ah, super! E le pasticcine pasta sarda, non l'hai mangiata oggi? No, dolci oggi niente, anche qui la piazza la gricemia. Cosa, dolci no, caffè, massa caffè. Caffè digestivo sì, Petrus. Ah, Petrus ho capito, Noi l'acqua vita originale, no? No, quella no, chi sa fa di troppo male. Già ce l'avevo un tempo, però non ne ho più preso. Ci vedi io Maria li devi invitare acqua vita, già Maria vi dice solo acqua vita. Un anno c'è di dopo. Oh, ah, già ce l'ho l'acqua vita. Quella già non mi manca, Ma però non è che siamo... Che ne fa la faccia, Capito? Appena. Ma non è che ne fa la faccia. Cacchio fosse, mi canso, mi fa male la ora. Mi sa quella la bocca, questi fa la ora. Però non mi la dico, se è lampo, Infatti brucia, chissà che cosa, alcol. Ma se vai... E così è, Graziano, l'acqua vite. Ma io faccio l'acqua non con la vite, con i bolloni. C'avevo una volta un liquore rosso, ma rosso sembrava... Si chiamava Rosso di Russia. Ma te canti la voce? Maria Benzina, Maria. Visto, se tu altri vedi con la terra subito, Ma ancora lo vendi, fuochi? A me me l'aviano regalato, una puritano, tocca. Ma una pittina ne fai più, lo vendiani. Cioè, l'aviano la una pulla da capita, in un gorso, la mostra. Cazzo, ma appena ti allumava, cazzo, datti la mette in macchina che c'è un liquore. Che sei a volte? Chi so è coso? Distillato di agave. Cazzo, ma che la forza, cazzo. Un bel forza, cazzo. Chi so andrà magari appena che quando mangi, chi non riesce a digerire, allora devi un bicchierino di ghiaccio, se ti fai la fine, fai di giri subito. E io sei incendio che ti piace le cocamo. Una volta, ma non ci più visto, manco le burla ci metto più in giro. Oh, acqua fitta, vedi la Luca, dalla Luca, è poco di piace. In campagna avevo sempre freddo. Paolo freddo, vivo, in campagna vivo, Paolo freddo. Si deve calci. Ma pure il ricino la disegno, gatta. Ma che ribiate, gatta. E poi di chi lavora, Invecchiata. Mi aveva un boccione, mi pare che... 8-10 anni che fa via questo boccione, gatta. A mafia da poco detto, quasi finito. Luca ogni volta che fa l'atticco. Fate bene, se si vaporeggia non si vive più, Meglio villa. È così, grazie. E allora, io quando faccio l'autista in camion mi via sempre. O a pulli di filuferro, o a pulli di whisky, GB, amaro, cinar. Sempre a pulli venivano sempre la macchina mia. No. Oh, magari sì, qualche pogarello così, magari in compagnia che fosse, ma se no no. Ripeto, non mancava a me. Però appena era l'assaggio ogni tanto, dai, ogni tanto però, Non me spesso. Ma che riprendi, mi assento un poco. Ehi, dai, ci vediamo poi allora. Capito, hai grazie. Bisogna avere l'ascolta. Io il camion la via sempre, anzi ti dico questo burro. Quando capitava in inverno che mi filmava qualche pattuglia nella zona del Nuorese, Fondi, quei posti lì, l'invitavo a vedere se si ruvidiano, altro che se sono servizio non bicco, e come si ruvidragavano. insomma, i servizi erano bingo, ma era qua si erano subito in una testa. E io ia. E ci sono come i negri, mi. Dici, la carne non la mangio, dopo me la mangiami. Mi dizia, tu sali sul camion, sul cassone, ma non vedere nessuno, no? E ripiravo i dazzitti, e vedi, a uno passava e dragava. Buono, a chi che un bel po' c'era già un bu, sassareti, però il servizio in quelle zone. E chi si hanno visto più di lacri? Esiste il nostro compaesano. Ehi, ma io, quando mi dicevo, come mai c'è tutte quelle bottiglie lì? E quelle sono per la mattina presto, che c'è freddo, quando esco mi faccio il cicchetto. E si può assaggiare, certo che sì. È venuta già Buraetti. Sta contento, no? Io che si vede gratis. E quindi sì, se ci lasci la bottiglia che ce la consumiamo poi. Sì, più di una volta, ma non una, no, due, tre. Allora è proprio i briagoni erano lì. Oppure la riserva. Ehi, l'ha già avuto di tutti i maneri, di polizia, carabinieri. Si è pigliato nel tutto musacagliato, non ci siamo visti, vai, vai. Mi sai. È così proprio. E che come te lo maresciallo quando trovava buon nannaro, che viaggiava ogni giorno, via la punta della impresa. E mi fa via le commilici. Era un maresciallo di silico, ogni volta mi filmava. Dite, gomma liscia, verbale, parlo. E poi si è diventato amico, quando mi vedeva non più fatti la baretta, io vai, vai, tanto non so come fare le commilici. Ma, uia. A me già mi conoscevano un bel poliziotto, a voglia che ne conoscevo. Lì nel Nuorese, il più anche nel Cagliaritano. Già ne conoscevano i due. A molti mi lasciavano andare, ci conoscevamo, ma una volta tu rendi da Olbia a te c'era il razzo. Ne scini da sotto il botto e manifemmo, e non manifatto nulla. La città da via, chi vi vicino qui là, un ristorante e bar. Hai te però non fare così sempre, mi grazie, vabbè, già non lo faccio più. No, lasciamo andare, se ti scrivi nuda. Se poi hai fatto i conti. Sono l'officio, che l'animale era i carabinieri di Ussi. Ogni anno si vede l'intera 131. Una di Ignazio si trovava conmigo, ho detto ma trova chi? Dice, invece passare sopra, sotto, passiamo sopra. No, no, anzi al contrario, invece passare sopra lo ponte, passiamo sotto lo ponte, così non la sapevo. Là lì passiamo sotto per i carabinieri di Ussi, 700 mila franchi. No, a me che erano i miserabili, erano i chissi di Oristano. E ci mi castagnavano sempre, non mi avevano male, mi si buttavano il burro a rubeso. Chi si erano i più importanti di Cristo? Gli italiani erano i siciliani, i carabinieri siciliani alle prime leve, ma ti grassagnavano, eh? Ehi, anche a me quelli di Oristano però, chi c'era nel randaggi brutti, una faccia di macco, una verbalone, e poi di più mi si buttavano a pisano alla macchina, se c'avevo sopraccarico. Perché se lo controllate, se c'è il sovraccarico sono cavoli amari. No, ma a me mi fregavano sempre, la macchina non era la mia, ripeto, era dell'impresa. Però mi fregavano sempre. Bollo, assicurazione, gomme lisce, cose, limite velocità, e era sempre in guerra. Ma una volta la giubbottiti, a chi era andando in piano, non aveva canna, era di dire il tracco. E io mi abbaglio dallo specchietto avanti, buoni, mi sorpassano e mi fermano. E lì, vicino a Oristano, a chi era andando piano. E infatti, come ti ha giudito, hanno fatto. Mi sono buttato a dare un beso e l'hanno dato in culo tutte e quattro. E come me stavi camminando piano? Perché è obbligatorio che devo correre, io cammino come figlio. A chi no, hai visto che... Chi non ero... Curo sopra a carico, capito? Si sono fottiti. Hai visto che andai via, noi che sopra a carico, e dunque non provavamo a camminare. Io andiamo a filmarlo, a controllare. E infatti... A che niente andare a Rubiso, subito a Rubiso, a controllare Rubiso. E anche salendo da Porto Torres se mi è successo, prima di Ottava. Lì all'incrocio di San Giovanni mi hanno fatto filmare, mi hanno parato questa B2 bilance e mi hanno bisato nello sparto traffico, mi hanno fatto venire il rodinanzi sopra, poi il rodinare e l'altro rodinare da chi erano tre assi. C'avevo lì. Era ben tardi, sono arrivato in gatto e come mai cammina piano? Perché per forza correre? Non ho capito. Quello è il mio passo. E là ne ho dai chi su luogo, buruchissi. Di me ne mi sono rimasti. Sì, normale. A chi non si bilanci fa niente, a me mi pare siano pure fasulli. A chi non è un peso stabile. E intanto male mi sono pisato l'ugamio con questi due bilance. Prima le ruote davanti, poi mi ha fatto andare più avanti, l'ha portata a rito e poi nel terzo asse le ha messo, arrivato i gacoli e beh, e poi io il giorno c'avevo groviglio, c'avevo di trafila, tutti grovigli, no? È voluminosa, però era il volume già ce n'era, però come peso non finita. Chi si fa del volume? Il volume è solo poco. Ma secondo me di a chi ruvidiani che con la gru gliel'ho appoggiata sopra per tenerlo schiacciato un po', si vedia dalle sponde, no? Secondo me di erano di piano a chi era un bel carico di bici, invece stava andando piano a chi era un pendolario là. E da poi io se ne brincava qualche pezzo di chi su gruviglio in mezzo alla strada. È vero, il gruviglio se non è liato, se cammini magari vuoi un gruviglio di patta che ti patta, ne sassa. Ma se è grovigliato vero, solo la brezza lo può fare. E infatti io gli ho messo il braccio della gru con il polpo, ha pizzicato lo sportellone di Darito, perché c'avevo il traccio con le sponde rialzate, quello del ferrovecchio. C'avevo un ferrovecchio, tutto groviglio, che avevo recuperato all'interno della petrolchimica da una ditta che abbiamo smantellato tutto, stavo lavorando lì. E dunque la ferriera quel periodo era chiuso, lo dovevo salire a Sassari, capito? A Viale Porto Torres. Poi lì uscivano i pacchetti, già li facevano i pacchetti poi. E poi lo pressavano e lo impacchettavano. E infatti se invece si acciaio inossidabile lo mettono a parte. Il ferro lo schiacciano, l'acciaio inossidabile lo mettono a parte. No, l'acciaio, quello lì, tutto l'acciaio lo recuperavano. C'aveva un altro prezzo e facevamo i rimorchi separati quando ho lavorato lì. Il ferro col ferro e l'acciaio con l'acciaio, tutto un altro prezzo, costa di più, più bacani di più, me. Sì, infatti, è tutto roba di recupero, E ho preso un tubo per l'antenna, mi sembra era 2,50 metri da grossetta, cos'era, con 3 centimetri, da 3, non più grosso. Allora in superiore era in lire ancora, tore, perché se ci conoscevamo ho fatto pagare 20.000 franchi. Ehi, i paletti in acciaio te li fa pagare un bel, non è come il ferro, te lo fai pagare un bel, a che hai di più pagare bene, ma tesi. Però se è roba buona, che si può vendere qua, non la porta quella, non la dà la ferriera, capito? Ti dà solo in acciaio la roba che praticamente non serve, là. Ah, quello sì. No, l'altra volta mi scegliamo un pezzo per il motocoltivatore, un pezzo di tondino, 30 centimetri, mi serviva, c'era tagliato lì. Dai, dottore, cosa stiamo dando? Vai, fatti dini, stai pagando. Ehi, quando sono cosette così già te le danno, non ne vuoi, no, capito? Quando sono un cazzatelle così. E io lì ci ho lavorato come autista, la prima volta 3 anni e la seconda volta 5 anni. E c'è stato un bel po' allora? Allora c'è stato un bel po' lì da Monsignor. No, ma adesso è diventato più l'ovvio. Adesso è diventato più... Adesso stringe il pugno, ma non ci sta la mocca, capito? Ho sentito l'altra volta, c'era un signore venuto, c'erano dei tubi in acciaio ossidabile, della stufa. Mi pare che hai parlato 60-70 euro. Lei tu non è caro, dice me lo dai di meno te lo prendo. No, se lo fai quella persona, dice lascia stare e vattene. È caro, e ha aumentato un bel. Io ci ho lavorato 2 volte lì. E mi hanno sempre chiamato due di andare a travagliarmi, anzi mi brigavano. Solo che io non ci andavo mai, poi quelle 2 volte mi hanno convinto e ci sono andato. Oh, ci ho lavorato in tutto 8 anni io lì. E facevo l'autista, no? Poi gli ultimi anni lavoravo anche in magazzino, quando non uscivo col camion, a tagliare le macchine o alla pressa. A pochi cibina di va. Il camion c'era Pierangelo, no, sì, Pierangelo mi si chiama, quello con Graziano. Pierangelo è quello col camion. Il camion lo guidava Gianfranco, che adesso se n'è andato in pensione. E lo guida Massimo, lo guida Giampiero, però adesso Giampiero neanche, non ne può guidare, perché era pompiere e neanche più in magazzino l'hanno fatto lavorare. E se no se lo cuidiamo pure da pompiere. Massimo e Gianfranco che se n'è andato in pensione. Grazie Angelo lo guidava qualche volta. Solo Massimo, l'altro che c'è è un autista già adesso, non mi ricordo il nome. Grazie Angelo lavora lì col polpo e basta, poi non usciva, lavorava lì in stabilimento. Ma prima, quando c'ero io, i primi anni, usciva anche Grazie Angelo con il 25, con l'OM100. Capito? Poi non è più uscito, se è voluto rimane in magazzino, si sono friati tutti tra fratelli, un afferratuglio, la giubbura si è parati, si erano ammazzati. Ma non più serioso è Luminori, Bastianino non più serioso. Bastianino, visto, è una testa di rappa. E a chi tutti vogliono comandare, adesso già stanno diviso i lavori, ognuno fa la cosa sua. Io poi l'ho voluto fare io aiutare dentro, a lavorare dentro lì, e quando non uscivo col camion, se no io dovevo fare solo autista, era assunto come autista e buh, capito? Facevo... Uscivo con il camion, con il carro attrezzi, con la motoretta, andavo a tagliare con Antonello, quello che è morto, Antonello Marcetto, o con Massimo, con Luciano, prima di essere in ufficio, Luciano, ma con me, lui tagliava. A chi? Io. E là sto chiudendo che c'è gente, ma chi vai? Ci stiamo domani, dai, saluto di casa e ci sentiamo domani. Ciao, grazie. Ciao, tattore, se rientra, dai, chiudo. Ok, ciao, riprendi, bacchi. Ciao, Gianmarino, buona serata. Grazie delle 4 chiacchiere, a domani se tutto va bene. Va bene, saluti ancora in casa, a domani, Gianmarino. Riprendi, grazie. Ciao Gianmaria, buona cena, buon tutta, domani se coincide, Tore non c'è, se rientra dopo glielo diciamo. Ciao, capita e bacchi. Ciao Gianmaria! Ehi, ciao, ciao, chiudo, ciao. Ciao, buonasera, ciao, ciao, grazie, come stai facendo, ciao? No, chiacchierando con Bacchisio, so. Sì, dai, io mi stavo andando a sciacquare. Domani mattina ci ha chiamato un amico poco fa. Domani mattina me ne vado a fare un po' di asparagi. Attento alle spine, mi. Io faccio di mano a beffa, Bacchi, va. Anche con i guanti, mi, entra lo stesso. È che ne avevo un paio di quelli semipelle, non li trovo più. Osvali! Eh beh, quello sì. No, perché sono andato con le scarpe antifortunistiche e mi sono tutte inzuppate di acqua. Adesso è asciutto, si può andare. È asciutto il terreno. Ma figlio, grazie. Cosa? Gianfranco abitava qua a fianco a casa. Già lo so, e lì era morto il figlio, adesso non mi ricordo il nome, il figlio piccolino. L'aveva investito orune nel ciglio tra le macchine, correndo il bambino e orune, il fratello di Giovanni l'ha preso in pieno. Ehi, infatti, Simone, mia moglie, sta dicendo si chiamava, capito? Abitavano proprio noi al numero 3 e lui al numero 5. Già lo so, già, e ci siamo fatti male io con questi marciti, perché loro abitavano sotto e io abitavo sopra di loro, dove c'era il tabacchino del signor Renzo Muglia al latte dolce. Ci siamo fatti grandi, capito? E poi la figliura è stata anche la mia ragazza per 5 anni, poi la mia ragazza. Io ho capito, te lo so, abitavano lì. Infatti poi Gianfranco si è sposato con la figlia del cugine, capito? E avevo preso il baracchino quando si sono sposati. Appena che si è sposato si è comprato un portatile. E mi parlava lì, abitava in cortile, uscia a Ratti. Con Nunzia si chiama la moglie. Già la conosco, conoscevo anche il pugile, tutta la famiglia della moglie, lo stesso, li conosco. Perché io, il padre era pugile, era andato in palestra da loro, però non mi piaceva, allora mi ero iscritto ai pompieri, lotta libera e lotta greca-romana. E ci ho fatto 5 anni lì, dai pompieri. Ho capito. No, cosa ho? Mia moglie sta dicendo, Capinuccia si chiama la moglie di Gianfranco, la chiamo Nuccia. Già lo so. Infatti c'aveva anche la frutta e verdura lì al latte dolce, vicino al tabacchino. E ci ha lavorato anche Capinuccia con Gianfranco. Gianfranco gli portava la verdura, la frutta la mattina presto. E lì lavorava Nuccia. Infatti, sì. Poi, quanti figli ha avuto? Altri due, mi sembra. Cosa chiama? Alessandro chiama, via. Alessandro il grande, poi Simone quello per volta, gli altri due, poi l'altro Simone e... Quattro e ce sono. Ne ha avuto, non sono. E lavorano tutti in magazzino adesso. Sì, Alessandro l'hanno esonerato perché lavorava per Danietta, però l'hanno trovato e ci vedeva i pezzi del motore e si è ricavato. Ah, peggio, ma è sempre un furavura è stato, anche quando loro erano ragazzi erano sempre un furavura. Gianfranco gli anni furava a bocca e si vendeva la roba a cua. E la poi succedivano i casini, gli indumali, per carità, ui. Come pensare, signor Costantino, quando ha ritirato, non so, forse c'eri anche in quel periodo tu, che ha ritirato le batterie dalle poste, che erano in vasetti di cristallo, te le ricordi tu quelle lì, grazie? Non me le ricordo, a signor Costantino gli facevo l'autista io, personale. Quando c'era da andare a Cagliari andavo io con lui alla fiera a comprare il camion con la gru, poi lui ne saliva la vettura e io ne salivo il camion. Ecco, c'è ben da farato. No, io ne ho uno ancora di quei barattoli di cristallo. Bravo, guarda, c'è Costantino, è alto 50 centimetri, e ce l'ha 20x20, il quadrato, il cristallo. Dentro c'era l'acido e le batterie delle poste. Poi li hanno sostituite, quelli lì li hanno eliminati perché erano al tempo della guerra. E i vasetti li ha tutti venduti, c'è Costantino. Grandi e piccoli, ci ha venduto tutto. Beh, già lo credo. E allora, quando c'ero io facevamo anche la roba americana, faceva le buste degli stracci e venivano i meccanici in magazzino a comprare i bussoni di stracci, e tutta roba americana che ci arrivava, a rimorchi arrivava, a Viale Portotorre, e sotto in quelle tettuie ci lavoravano due o tre ragazze, ne staccavano tutti i bottoni, li facevano a pezzi, a stracci, e li imbussavano, poi pesavano il sacco, lo chiudevano e facevano sacchi da 10 kg, da 20 kg. Venivano i meccanici e compravano gli stracci. Di Napoli dove è stato, ma... E perché quando ha ritirato tutti i contenitori delle munizioni dall'esercito, veniva in poco con i quattro catturetti, e ce le ha tutte vendute. Quelle sono andate anche io a ritirarle, alla Gonzaga, a tutte le caserme della Sardegna, nel Nuorese, e anche tutti i carceri che sono chiusi, li ho fatti io a tagliare i ferri, delle grate, dei cancelli, nei carceri dei sotterranei, capito? E a ritirarne i piatti in alluminio, consumati, cucchetti, buchetti, c'erano forchette, faceva la forchetta e la coltella, e la coltello, da una parte era coltello e da una parte forchetta. Allora sì, no, quelle cassette in lamiera che c'erano le munizioni, e una io, me l'ha data, c'è Costantino, me l'ha data, ne ho una. Dove si è soffitto adesso? Non serve a niente, non serve i buoni. Munizioni, ci sono messo delle viti, dei chiudi e roba varia. Ne avevo parecchie io allora, ma mi pare mi sono rimasti un 200, ne avevo fatto 200 lì, con i proiettili, e non so, non mi metto nemmeno gli aggiunti. Belli, a ciondolini li avevo fatti. Uno mi aveva una vita attaccata a un guzzo, gli avevo messo un filo di pelle, di caucciù, e mi avevo fatto una specie di collanina. Era bello, ma non mi metto neanche una fina nei vatti. Ce li ho perché ce li ho, però non so dove sono. Ma sono i proiettili di scarichi, li hai scaricati? Ne ho levato la cartuccia e li ho scaricati. Col proiettile con lo stagno gli ho saldato un pezzettino di ferro e lo usavo a ciondolo. Ho capito. Un portachiavi, un ciondolo, del genere si poteva fare. Perché dentro c'era la polvere, ma quello non si poteva ottenere. O la svuotavi o ce la buttavi. No, con due pinze l'ho mollata e l'ho svuotata. È vero. E allora non i boedini si notarricchiano. Come così, sopra mobili, fatti belli, così già sono bellini, da. Li vendono anche, ho visto su internet. E come soprammobili, portacini, poi va un sacco di impriarsi, là. Ehi, graziati, devo salutare, la batteria se ne sta andando, solo rimaniamo al buio. Ciao. Va bene, ciao, a domani, intanto chiudo anche io. Ciao Luca, che chiudo, là. Ce la risentiamo, a domani. Ciao Bacchisio, buona carica anche a te Luca. E vai a fare gli asparagi e portati gli sibali e i guanti, bello me! Ciao, grazie, dai, ciao anche a Bacchisio. A domani se Dio vuole. Ciao! Ciao da Paoletta anche da parte di Marina, ciao, grazie. gli ha ricambiato la paletta e dentro che sta facendo cruciferma e sta guardando a Bonuri, sì. Va bene, ricambiata al tutto, ciao. E anche lui sta guardando Bonuri, sì, capito, ciao. Ehi, ciao. Hey. Ciao, ciao Bacchi, ciao Tore, ciao Luca. Ciao Luca Flippero. Ciao, grazie a te, non sai. Come? Luca, sono a bagno. Luis. Luca, volevo in bacca. Ma non avevi già fatto quel coso del fucile alla cubicatura? No. Ma che avanti, devo fare pure l'insulina a preparare qui. A mommari. Preparare solo avevo 10 secondi. Le pure il lago e caricarla, boh, e poi pugnetti, cosa avevo? Prima ti deve fare il dito, pungere il dito, controllare la glicemia, scrivere, pigiarli su, prendere la lezione e mettere l'ago e fare così sempre quei 10 minuti ci vogliono. Ma io ci metto un attimo a fare quel lavoro lì a mamma, un attimo, veramente. Vabbè, ciao, ciao, vai, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao Luca, ciao Marina. Sì, Marina al telefono e ricambia, ciao Paolè. Ciao. Ciao, ciao. Luca, stiamo sui fuori. Sì. Ancora ne vuoi il vento, Lino, ne ho me, ne vuoi. No, per adesso no. Ne ho, sti servo come lo sapere, so se dico a Rugomodo. No, se ce n'è qualcuna troppo potente, capito? No, ne ho una grande, mi sa che sia più di 10 comunque, grande. È un alimentatore di quelli di computer, però non di quelle normali, un po' più grandetta. Ce l'ha a voi, più potente da dividere più alimentazione. La gioco di 16 camperi. Perché ne ho una grande anche, mi pare che dentro fa dei, però girano sempre la velocità, capito? Sì, ma sono stato vicino la bocca del microfono, oggi ho compreso nuda, va giù, il volume a manetta, oggi ho compreso nuda. Cos'è che hai detto? Non ho capito. Ho detto che gli ho dato anche il 25 ampere, girano alla stessa maniera. Ne ho anche una grande 10x10 o forse 12x12. Però girano sempre, non girano molto, non capito. Poi ne ho una della Intel, quella è potente. Fammela vedere. Ma quella non la puoi attaccare, non ha agganci, capito? Puoi attaccarla, perché è in casso. Secondo quel lavoro lì fai la spacchi. Quelle dei dissipatori vanno bene, quelle dei processori, non quelle che ci sono anche.